Ad alta voce. Massimo Popolizio legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Carneade, chi era costui? Ruminava tra sé Don Abbondio, seduto sul suo seggiolone in una stanza del piano superiore, con un libricciolo aperto davanti, quando Perpetua entrò a portargli l'imbasciata. Carneade, questo nome mi par bene d'averlo letto o sentito. Doveva essere un uomo di studio, un letteratone del tempo antico, è un nome di quelli. Ma chi diavolo era costui? Tanto il pover'uomo era lontano da preveder che burrasca gli si addensasse sul capo. Bisogna sapere che Don Abbondio si dilettava di leggere un pochino ogni giorno e un curato suo vicino, che aveva un po' di libreria, gli prestava un libro dopo l'altro, il primo che gli veniva alle mani. Quello su cui meditava in quel momento Don Abbondio, convalescente della febbre e dello spavento, anzi più guarito quanto alla febbre che non volesse lasciar credere, era un panegirico in onore di San Carlo, detto con molta enfasi e udito con molta ammirazione nel Duomo di Milano 2 anni prima. Il santo v'era paragonato, per l'amore allo studio, ad Archimede. E fin qui Don Abbondio non trovava inciampo, perché Archimede ne ha fatte di così curiose, ha fatto dir tanto di sé che per saperne qualche cosa non c'è bisogno di un'erudizione molto vasta. Ma dopo Archimede l'oratore chiamava paragone anche Carneade, e lì il lettore era rimasto arenato. In quel momento entrò Perpetua ad annunziar la visita di Tonio. A quest'ora, disse anche Don Abbondio, come era naturale. Cosa vuole? Non hanno discrezione, ma se non lo piglia al volo... E già, se non lo piglio ora, chissà quando lo potrò pigliare. Fatelo venire. Ehi, siete poi ben sicura che sia proprio lui? Diavolo, rispose Perpetua, e scese. Aprì l'uscio e disse. Dove siete? Tonio si fece vedere e nello stesso tempo venne avanti anche Agnese e salutò Perpetua per nome. «Buonasera, Agnese», disse Perpetua. «Di dove si viene a quest'ora?» «Vengo da...» e nominò un paesetto vicino. «E se sapeste», continuò, «mi son fermata di qui appunto in grazia vostra». «O perché?» domandò Perpetua e voltandosi ai due fratelli. «Entrate», disse, «che vengo anch'io». «Perché?» rispose Agnese. Una donna di quelle che non sanno le cose e vogliono parlare. S'ostinava a dire che voi non vi siete maritata con Beppe Solavecchia né con Anselmo Lunghigna perché non v'hanno voluta. Io sostenevo che siete stata voi che li avete rifiutati, l'uno e l'altro. Sicuro? Alla bugiarda. La bugiardona. E chi è costei? Non me lo domandate, che non mi piace metter male. Me lo direte, ma me l'avete a dire, la bugiarda. Basta. Ma non potete credere quanto mi sia dispiaciuto di non saper bene tutta la storia per confonder colei. Guardate se si può inventare a questo modo, esclamò di nuovo Perpetua e riprese subito. In quanto a Beppe, tutti sanno e hanno potuto vedere. Ehi, Tonio, accostate l'uscio e salite pure che vengo. Tonio, di dietro, rispose di sì e Perpetua continuò la sua narrazione appassionata. In faccia all'uscio di Don Abbondio s'apriva tra 2 casipole una stradetta che, finite quelle, voltava in un campo. Agnese vi si avviò come se volesse tirarsi alquanto in disparte per parlar più liberamente e Perpetua dietro. Quando ebbero voltato e furono in un luogo donde non si poteva più vedere ciò che accadesse davanti alla casa di Don Abbondio, Agnese tossì forte. Era il segnale. Renzo lo sentì, fece coraggio a Lucia con una stretta di braccio e tutte e due, in punta di piedi, vennero avanti rasentando il muro. Zitti, zitti. Arrivarono all'uscio, lo spinsero adagino, adagino. Cheti e chinati entrarono nell'andito dove erano i due fratelli ad aspettarli. Renzo accostò di nuovo l'uscio, pian piano, e tutte e quattro su per le scale, non facendo rumore neppur per uno. Giunti sul pianerottolo, i due fratelli si avvicinarono all'uscio della stanza, che era di fianco alla scala, e gli sposi si strinsero al muro. «Deo gratias!» disse Tonio a voce chiara. «Tonio, entrate!» rispose la voce di dentro. Il chiamato aprì l'uscio appena quanto bastava per poter passare lui e il fratello a un per volta. La striscia di luce che uscì d'improvviso per quell'apertura e si disegnò sul pavimento oscuro del pianerottolo fece riscuoter Lucia come se fosse scoperta. Entrati i fratelli, Tonio si tirò dietro l'uscio. Gli sposi rimasero immobili nelle tenebre, con le orecchie tese, tenendo il fiato. Il rumore più forte era il martellare che faceva il povero cuore di Lucia. Don Abbondio stava, come abbiamo detto, su una vecchia seggiola, ravvolto in una vecchia zimarra, con in capo una vecchia papalina che gli faceva cornice intorno alla faccia, al lume scarso di una piccola lucerna. Due folte ciocche di capelli che gli scappavano fuori dalla papalina, due folti sopraccigli, due folti baffi, un folto pizzo, tutti canuti e sparsi su quella faccia bruna e rugosa, potevano assomigliarsi a cespugli coperti di neve, sporgenti da un dirupo al chiaro di luna. «Ah! Ah!» fece il suo saluto mentre si levava gli occhiali e li riponeva nel libricciolo. «Dirà il signor curato che son venuto tardi», disse Tonio inchinandosi, come pure fece, ma più goffamente, Gervaso. «Sicuro che è tardi. Tardi in tutte le maniere. Lo sapete che sono ammalato?» «Oh, e mi dispiace. L'avrete sentito dire, sono ammalato e non so quando potrò lasciarmi vedere. Ma perché vi siete condotto dietro quel figliuolo?» «Così, per compagnia, signor curato. Basta. Vediamo. Sono 25 berlinghe nuove, di quelle col Sant'Ambrogio a cavallo», disse Tonio, levandosi un involtino di tasca. «Vediamo», replicò Don Abbondio, e preso l'involtino, si rimesse gli occhiali, l'aprì, cavò le berlinghe, le contò, le voltò, le rivoltò, le trovò senza difetto. «Ora, signor curato, mi darà la collana della mia Tecla?» «È giusto», rispose Don Abbondio. Poi andò a un armadio, si levò una chiave di tasca e, guardandosi intorno, come per tener lontani gli spettatori, aprì una parte di sportello, riempì l'apertura con la persona, mise dentro la testa per guardare e un braccio per prendere la collana. La prese e, chiuso l'armadio, la consegnò a Tonio, dicendo: «Va bene?» «Ora», disse Tonio, «si contenti di mettere un po' di nero sul bianco?» «Anche questa», disse Don Abbondio. «Ma le sanno tutte? Ma com'è divenuto sospettoso il mondo? Non vi fidate di me?» «Come, signor curato, se io mi fido? Ma lei mi fa torto. Ma siccome il mio nome è sul suo libraccio dalla parte del debito, dunque, giacché ha già avuto l'incomodo di scrivere una volta così, dalla vita alla morte...» «Bene, bene», interruppe Don Abbondio, e brontolando tirò a sé una cassetta del tavolino, levò fuori carta, penna e calamaio e si mise a scrivere, ripetendo a viva voce le parole di mano in mano che gli uscivano dalla penna. Frattanto Tonio e a un suo cenno Gervaso si piantarono ritti davanti al tavolino in maniera di impedire allo scrivente la vista dell'uscio e, come per ozio, andavano stropicciando coi piedi il pavimento per dar segno a quei che erano fuori d'entrare e per confondere nello stesso tempo il rumore delle loro pedate. Don Abbondio, immerso nella sua scrittura, non badava ad altro. Allo stropiccio dei quattro piedi, Renzo prese un braccio di Lucia, lo strinse per darle coraggio e si mosse, tirandosela dietro tutta tremante, che da sé non vi sarebbe potuta venire. entrarono piano piano, in punta di piedi, trattenendo il respiro, e si nascosero dietro i due fratelli. Intanto Don Abbondio, finito di scrivere, rilesse attentamente, senza alzar gli occhi dalla carta, la piegò in quattro, dicendo: «Oh, ora sarete contento!» E levatosi con una mano gli occhiali dal naso, la porse con l'altra a Tonio, alzando il viso. Tonio, allungando la mano per prendere la carta, si ritirò da una parte, Gervaso a un suo cenno dall'altra, e nel mezzo, come al dividersi di una scena, apparvero Renzo e Lucia. Don Abbondio vide confusamente, poi vide chiaro, si spaventò, si stupì, si infuriò, pensò, prese una risoluzione, tutto questo col tempo che Renzo mise a proferire le parole: «Signor curato, in presenza di questi testimoni, questa è mia moglie!» Le sue labbra non erano ancora tornate a posto che Don Abbondio, lasciando cader la carta, aveva già afferrata e alzata con la mancina la lucerna, ghermito con la dritta il tappeto del tavolino e tiratolo a sé con furia, buttando a terra libro, carta, calamaia e polverino, e balzando tra la seggiola e il tavolino, s'era avvicinato a Lucia. La poveretta, con quella voce soave e allora tutta tremante, aveva appena potuto proferire: «E questo?» che Don Abbondio le aveva buttato sgarbatamente il tappeto sulla testa e sul viso per impedirle di pronunziare intera la formula. E subito, lasciata cader la lucerna che teneva nell'altra mano, s'aiutò anche con quella a imbacuccarla col tappeto, che quasi la affogava, e intanto gridava quanto ne aveva in canna: «Perpetua, perpetua, tradimento, aiuto!» Il lucignolo, che moriva sul pavimento, mandava una luce languida e saltellante sopra Lucia, la quale, affatto smarrita, non tentava neppure di svolgersi e poteva parere una statua abbozzata in creta sulla quale l'artefice ha gettato un umido panno. Cessata ogni luce, Don Abbondio lasciò la poveretta e andò cercando a tastoni l'uscio che metteva a una stanza più interna. Lo trovò, entrò in quella, si chiuse dentro, gridando tuttavia: «Perpetua, tradimento, aiuto, fuori questa casa, fuori di questa casa!» Nell'altra stanza tutto era confusione. Renzo cercando di fermare il curato e remando con le mani come se facesse a mosca cieca, era arrivato all'uscio e picchiava, gridando: «Apra, apra, non faccia schiamazzo!» Lucia chiamava Renzo con voce fioca e diceva pregando: «Andiamo, andiamo, per l'amor di Dio!» Tonio Carpone andava spazzando con le mani il pavimento per veder di raccapezzare la sua ricevuta. Gervaso, spiritato, gridava e saltellava cercando l'uscio di scala per uscire a salvamento. In mezzo a questo serra serra non possiamo lasciar di fermarci un momento a fare una riflessione. Renzo, che strepitava di notte in casa altrui, che vi s'era introdotto di soppiatto e teneva il padrone stesso assediato in una stanza, ha tutta l'apparenza di un oppressore, eppure alla fin dei fatti era l'oppresso. Don Abbondio, sorpreso, messo in fuga, spaventato mentre attendeva tranquillamente ai fatti suoi, parrebbe la vittima, eppure in realtà era lui che faceva un sopruso. Così va spesso il mondo, voglio dire, così andava nel secolo XVII. L'assediato, vedendo che il nemico non dava segno di ritirarsi, aprì una finestra che guardava sulla piazza della chiesa e si diede a gridare: «Aiuto, aiuto!» Era il più bel chiaro di luna. L'ombra della chiesa e più in fuori l'ombra lunga ed acuta del campanile si stendeva bruna e spiccata sul piano erboso e lucente della piazza. Ogni oggetto si poteva distinguere quasi come di giorno. Ma fin dove arrivava lo sguardo non appariva indizio di persona vivente. Contiguo però al muro laterale della chiesa, e appunto dal lato che rispondeva verso la casa parrocchiale, era un piccolo abituro, un bugigattolo, dove dormiva il sagrestano. Fu questo, riscosso da quel disordinato grido, fece un salto, scese il letto in furia, aprì l'impannata di una sua finestra, mise fuori la testa con gli occhi tra i peli e disse: «Cosa c'è?» «Correte, Ambrogio! Aiuto! Gente in casa!» gridò verso di lui don Abbondio. «Vengo subito!» rispose quello. Tirò indietro la testa, rinchiuse la sua impannata e, quantunque mezzo tra il sonno e più che mezzo sbigottito, trovò su due piedi un espediente per dar più aiuto di quello che gli si chiedeva, senza mettersi lui nel tafferuglio, quale si fosse. Da dipiglio alle brache, che teneva sul letto, se le caccia sotto il braccio come un cappello di gala, e giù balzelloni per una scaletta di legno, corre al campanile, afferra la corda della più grossa delle due campanette che c'erano e suona a martello. Ton, ton, ton, ton, i contadini balzano a sedere sul letto. I giovinetti sdraiati sul fienile tendono l'orecchio, si rizzano. Cos'è? Cos'è? Campana a martello? Fuoco? Ladri? Banditi? Molte donne consigliano, pregano i mariti di non muoversi, di lasciar correre gli altri. Alcuni s'alzano e vanno alla finestra. I poltroni, come se si arrendessero alle preghiere, ritornan sotto. I più curiosi e i più bravi scendono a prendere le forche e gli schioppi per correre al rumore. Altri stanno a vedere. Ma prima che quelli fossero all'ordine, prima anzi che fossero ben desti, il rumore era giunto agli orecchi d'altre persone che vegliavano non lontane, ritte e vestite. I bravi in un luogo, Agnese Perpetua in un altro. Diremo prima brevemente ciò che facessero coloro dal momento in cui li abbiano lasciati, parte nel casolare e parte all'osteria. Questi tre, quando videro tutti gli usci chiusi e la strada deserta, uscirono in fretta come se si fossero avvisti d'aver fatto tardi e dicendo di voler andare subito a casa. Diedero una giravolta per il paese per venire in chiaro se tutti erano ritirati e infatti non incontrarono anima vivente né sentirono il più piccolo strepito. Passarono anche piano piano davanti alla nostra povera casetta, la più quieta di tutte, giacché non c'era più nessuno. Andarono allora deviato al casolare e fecero la loro relazione al signor Griso. Subito questo si mise in testa un cappellaccio, sulle spalle un sarrucchino di tela incerata sparso di conchiglie, prese un bordone da pellegrino, disse: «Andiamo da bravi, zitti e attenti agli ordini!» S'incamminò il primo, gli altri dietro, e in un momento arrivarono alla casetta per una strada opposta a quella per cui se n'era allontanata la nostra brigatella, andando anch'essa alla sua spedizione. Il Griso trattenne la truppa alcuni passi lontani. Andò innanzi solo ad esplorare e, visto tutto deserto e tranquillo di fuori, fece venire avanti due di quei tristi. Diede loro ordine di scalare adagino il muro che chiudeva il cortiletto e, calati dentro, nascondersi in un angolo dietro un folto fico sul quale aveva messo l'occhio la mattina. Ciò fatto, picchiò pian piano con l'intenzione di dirsi un pellegrino smarrito che chiedeva ricovero fino a giorno. Nessun risponde. Ripicchia un po' più forte, nemmeno uno zitto. Allora va a chiamare un terzo malandrino, lo fa scendere nel cortiletto come gli altri due, con l'ordine di sconficcare adagio il paletto per aver libero ingresso e la ritirata. Tutto si eseguisce con gran cautela e con prospero successo. Si metton tutti con men cautela a guardare, a tastare per ogni canto, buttan sotto sopra la casa. Mentre costoro sono in tali faccende, i due che fan la guardia all'uscio di strada sentono un calpestio di passini frettolosi che s'avvicinano in fretta. Si immaginano che chiunque sia passerà diritto. Stan quieti e a buon conto si mettono allerta. E infatti il calpestio si ferma appunto all'uscio. Era Menico che veniva di corsa, mandato dal padre Cristoforo ad avvisar le due donne che, per l'amor del cielo, scappassero subito di casa e si rifugiassero al convento perché... il perché lo sapete. Prende la maniglia del paletto per picchiare e se lo sente tentennare in mano. schiodato e sconficcato. «Che è questo?» pensa, e spinge l'uscio con paura. Quello s'apre. Menico mette il piede dentro in gran sospetto e si sente a un punto acchiappar per le braccia e due voci sommesse a destra e a sinistra che dicono in tono minaccioso: «Zitto, o sei morto!» Lui, invece, caccia un urlo. Uno di quei malandrini gli mette una mano in bocca, l'altro tira fuori un coltellaccio per fargli paura. Il garzoncello trema come una foglia e non tenta neppur di gridare, ma tutto a un tratto, invece di lui e con ben altro tono, si fa sentir quel primo tocco di campana così fatto e dietro una tempesta di rintocchi in fila. «Chi è in difetto è in sospetto», dice il proverbio milanese. All'uno e all'altro furfante parve di sentire in quei tocchi il suo nome, cognome e soprannome. Lasciano andare le braccia di Menico, ritirano le loro in furia, spalancano la mano e la bocca, si guardano in viso e corrono alla casa, dove era il grosso della compagnia. Menico, via, a gambe per la strada, alla volta del campanile, dove a buon conto qualcheduno ci doveva essere. Agli altri furfanti che frugavano la casa, dall'alto in basso, il terribile tocco fece la stessa impressione. Si confondono, si scompigliano, si urtano a vicenda, ognuno cerca la strada più corta per arrivare all'uscio. Eppure era tutta gente provata e avvezza a mostrare il viso. Ma non poterono star saldi contro un pericolo indeterminato e che non s'era fatto vedere un po' da lontano prima di venir loro addosso. Ci volle tutta la superiorità del griso a tenerli insieme, tanto che fosse ritirata e non fuga. Come il cane che scorta una mandra di porci, corre or qua or là a quei che sbandano e ne addenta uno per un orecchio e lo tira in schiera, ne spinge un altro col muso, abbaia un altro che esce di fila, in quel momento, così, il pellegrino acciuffa un di coloro che già toccava la soglia e lo strappa indietro. Caccia indietro col bordone uno e un altro che s'avviava da quella parte, grida agli altri che corrono qua e là senza saper dove, tanto che li raccolsò tutti nel mezzo del cortiletto. «Presto, presto, pistola in mano, coltelli in pronto, tutti insieme, e poi andremo, così si va. Chi volete che ci tocchi se siamo ben tutti insieme? Sciocconi, ma se ci lasciamo acchiappare a uno, anche i villani ce ne daranno. Vergogna! Dietro a me, uniti!» Dopo questa breve arringa si mise alla fronte e uscì il primo. La casa, come abbiamo detto, era in fondo al villaggio. Il griso prese la strada che metteva fuori e tutti gli andarono dietro in buon ordine. Lasciamoli andare e torniamo un passo indietro a prendere Agnese e Perpetua che abbiamo lasciate in una certa stradetta. Thank you.